30. Minestra di bomboline di riso. Riso grammi 100, burro grammi 20, parmigiano grattato grammi 20, un rosso d'uovo, odore di noce moscata, sale quanto basta. Cuocete molto e ben sodo il riso nel latte, mezzo litro potrà bastare. Prima di levarlo dal fuoco, aggiungete il burro e il sale e quando non è più a bollore, metteteci il rimanente. Per il resto, regolatevi come alla ricetta antecedente. Queste bomboline riescono al gusto migliori di quelle di patate. Questa dose basterà per 6 persone.